Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi un'altra puntata da non perdere. Torniamo infatti negli Stati Uniti dirigendoci nell'Idaho, stato del nord-ovest americano. Lo sapete che fuggono dall'Italia anche gli ingegneri nucleari? Ma la domanda è, col previsto ritorno dell'energia atomica nel nostro paese, si aprono interessanti spirali professionali anche per loro? Oppure vittime di un paese dove l'85% delle offerte di lavoro resta sommerso, sceglieranno la Cina, un altro mercato in pieno sviluppo? Quesiti cui cercheremo di fornire una risposta. Per fare chiarezza vi anticipiamo che la parola d'ordine oggi è stimoli. Perché l'Italia non riesce a fornirne a sufficienza ai suoi giovani migliori, obbligandoli a un espatrio? In America azione corrisponde reazione, nel senso performi, porti i contratti pubblichi e vai avanti, ti danno progetti, ti danno soldi e ti danno anche promozioni e soldi a livello personale, quindi c'è una carriera. Ho 36 anni, per la mia età sono molto giovane per il posto dove sono in questo momento. Cristian Arabiti, 36 anni, è ingegnere nucleare e group leader all'Idaho National Laboratory. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. In apertura una notizia che arriva dalla Francia, dove il ministro dell'Educazione Superiore e della Ricerca, Valérie Pécresse, ha deciso di fare ponti d'oro ai ricercatori che intendono tornare in patria. Retour Post-Doctorant è il nome del progetto sperimentale che ha l'obiettivo di incentivare i giovani ricercatori che hanno sostenuto un dottorato all'estero a tornare oltre Alpe. Il programma, promosso dall'Agenzia Nazionale della Ricerca, ha un budget di 11,5 milioni di euro e funziona per concorso a progetto. Gli aiuti per il ricercatore possono raggiungere i 700.000 euro distribuiti su 3 anni. In Francia solo il 3% dei ricercatori espatria, l'80% torna dopo qualche anno. E restiamo in tema ricerca. Premiazione lunedì a Milano per i vincitori 2009 delle 4 borse di studio assegnate da Unicredit and Universities Foundation. Tra loro due giovani ricercatori al lavoro alla Stanford University e alla University of Chicago. Ma c'è anche un cervello di ritorno dall'Università di Copenaghen alla Cattolica di Milano. Sentiamo Gian Antonio Deroni, segretario generale di Unicredit and Universities. Noi siamo convinti che investire sui giovani, soprattutto sui più talentuosi, sia un imperativo non solamente per le aziende, ma debba essere un imperativo per il paese. Sappiamo che in questo momento non è facile, le risorse scarseggiano, ma è nei momenti di difficoltà e nei momenti in cui la crisi, soprattutto economica, si fa più acuta, che bisogna avere il coraggio di investire maggiormente sui giovani e comunque sia sul futuro. Investire su questi giovani significa proprio investire sul futuro nostro, del paese e dei propri talenti, dei talenti che in qualche modo possano aiutare il sistema a ripartire. Una fuga all'estero dei ricercatori italiani può far solo bene, purché prima o poi tornino in patria, così Paolo Scaroni, amministratore delegato dell'ENI. E parliamo ora della condizione dei giovani professionisti in Italia. Sono difficili a causa dell'instabilità lavorativa, del limitato livello di tutele e dei bassi salari le condizioni per l'inserimento dei neolaureati in Lombardia. Il tasso di disoccupazione complessivo degli under 30 nella regione è passato dal 7% del 2008 al 10,8% nel 2009. Sempre nel 2009 un neolaureato su 5 non ha trovato lavoro. La ricerca è stata promossa da Camera di Commercio di Milano e Unioncamere Lombardia. I giovani del Mezzogiorno sono tra i soggetti più colpiti dalla crisi economica e per questo sono necessarie riforme condivise con le parti sociali per l'accesso al mercato del lavoro, in particolare per il precariato e per il merito. Così il direttore generale di Banca Italia, Fabrizio Saccomanni. E per il segretario generale della CGIL Guglielmo Epifani, i giovani sono in un baratro, non solo i milioni di disoccupati, ma anche chi studia all'estero e non torna. Sono migliaia di talenti e capacità persi per sempre ed è una gigantesca colpa dell'etica pubblica, così Epifani. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo un Project Development Officer al segretariato del programma Interreg 4B con sede a Lille in Francia, preferibile una laurea affine all'integrazione europea e allo sviluppo regionale, scadenza per i CV 25 giugno, info su nwyeurope.eu. Un Business Development Manager presso l'agenzia di consulenza Human Dynamics con sede a Vienna e specializzata nel settore pubblico, richiesta la laurea in scienze politiche, scadenza per i CV 7 luglio, info su humandynamics.org. E infine un ingegnere senior all'ESO, la European Organization for Astronomical Research in the Southern Hemisphere, lavorerà alla CIA in Cile. Scadenza per i CV domani, info su jobs.eso.org. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta negli Stati Uniti per esplorare un altro dei 50 stati a stelle e strisce. Nome: Christian. Cognome: Rabiti. Età: 36. Città di origine: Rocca San Casciano. Studi: dottorato in ingegneria meccanica. Anno in cui hai lasciato l'Italia: definitivamente nel 2002. Per andare dove? Karlsruhe, Germania. Perché? Volevo fare ricerca e essere pagato. Quale lavoro svolgi attualmente? Ingegnere nucleare. Dove? Idaho, Stati Uniti. Tornerai? Spero, dipende da cosa trovo una volta che torno. Oh, beautiful. In liberating strife. America the Beautiful, Ray Charles, per introdurre la storia dell'ingegnere nucleare Christian Rabiti. Allora Christian, iniziamo a parlare con te del percorso che ti ha portato negli Stati Uniti. Partiamo dai tuoi studi: ti diplomi al liceo scientifico di Forlì, dopodiché ti iscrivi a Bologna a ingegneria nucleare. Perché questa scelta? All'inizio volevo fare fisica, poi mi sono spaventato, ho pensato che non avrei trovato lavoro e così ho pensato ingegneria, una via di mezzo, ingegneria nucleare. Quindi questi un po' i motivi che ti hanno portato su una laurea non esattamente, possiamo dire, tipica dei nostri studenti universitari. E se dovessi tracciare un bilancio della tua esperienza universitaria, che voto daresti? 7.5. Perché? L'esperienza formativa è stata grande, però quando siamo arrivati in fondo non c'è stato il feeling di aver raggiunto un successo. È stato solo tanta fatica e alla fine non siamo stati apprezzati e non c'era differenziazione, eravamo tutti uguali. Questo effettivamente è un tema abbastanza importante da trattare quando si parla di giovani laureati e giovani professionisti che, tracciando un po' il bilancio degli anni universitari, hanno un po' l'impressione forse che impegnarsi può non essere sempre apprezzato. Tu infatti, per uscire un po' dal selciato, per intraprendere qualcosa di originale, vai a Parigi e trascorri 6 mesi di lezione con 12 esami e 6 mesi di stage. Perché decidi di farlo? Per uscire dal selciato, come hai detto tu, è un'opportunità, mi viene proposta e la prendo al volo. Parto, vado a Parigi, difficile, dura, perché l'esperienza è stata veramente, veramente dura là. Poi però ti rendi conto che sei merce pregiata, sicuramente la cosa più importante che succede quando vado là. Non è un periodo semplice a Parigi. Tu scrivi a giovanitalenti@radio24.it: 14 ore di lavoro al giorno per un anno, senza sabati e domeniche, la prima volta realmente lontano da casa e da tutti gli affetti, ma alla fine risulto essere quinto su 15 e hai anche la fortuna di lavorare col migliore del campo e forse nel mondo. In quale settore? Sempre ingegneria nucleare, no? Comincio a diventare quello che poi farò oggigiorno, uno sviluppatore di modelli per la simulazione dei reattori nucleari. Siamo software per capire cosa fanno i reattori. Questa esperienza in Francia ti dà un boost, direbbero gli inglesi, cioè un qualcosa in più, una marcia in più. Torni in Italia e cosa succede? Cerco di capire cosa posso fare, detto sinceramente, completamente un'attitudine diversa. In Italia devo chiedere, devo supplicare, mentre in Francia mi cercavano. Dopo i primi tentativi riguardo di nuovo all'estero. Ti laurei sì in Italia, c'è anche diciamo un'ipotesi dottorato nel bel paese che però sfuma. Perché? Parlo con i professori, mi sembra che non ci sia entusiasmo, mi sembra che quasi si tirano indietro, hanno paura forse anche loro di mettermi in una situazione che non ha uno chiaro sbocco. Quello che avevi fatto in Francia non serviva? Serviva, ma tanto quanto, cioè voglio dire, anche se sei bravo, cioè se sai le cose, cosa cambia? Cioè, voglio dire, non è che per questo dopo il dottorato ti danno una posizione o un professore o uno sbocco nell'industria. Non c'è una selezione reale sul merito, su quello che uno ha fatto, su quello che uno ha imparato? Non credo, sinceramente non credo. Penso che sia difficile trovare l'applicabilità e il riconoscimento del merito se rimani in ambito accademico. E allora torni all'estero, come poi succede nel tuo caso, hai 3 offerte di dottorato e scegli la Germania anche per motivi diciamo più personali. Innanzitutto dove ti trasferisci, com'è l'impatto e soprattutto quali differenze poi noti fra il tuo percorso e quello dei tuoi colleghi di università. L'esperienza in Germania è stata veramente bella, devo dire sinceramente. Dottorato pagato bene, forse più di quanto i miei colleghi in Italia prendevano come inizio di carriera nell'industria. Ero contento, facevo il lavoro che mi piaceva, facevo la ricerca, ero ben pagato, potevo permettermi di mantenere, una grande esperienza positiva direi. Gli altri che sono rimasti in Italia, chi è partito nell'industria ha cambiato praticamente settore, al di fuori dell'ambito nucleare, chi invece è voluto rimanere nell'ambito è andato all'estero come ho fatto io. Tu a quel punto, finita la tua esperienza in Germania, anziché tornare in Italia, accetti un'offerta che ti arriva dagli Stati Uniti, in particolare da Chicago. Cosa vai a fare negli Stati Uniti? E che anno è? È il 2005, continuo a fare lo sviluppatore di software per la simulazione dei reattori. È un'offerta che non si può rifiutare, nel senso che al tempo addirittura quando mi arrivò l'offerta andai dal mio capo in Germania e gli dissi: ho l'offerta in mano, cosa faccio? Lui mi guarda e mi dice: vai. Anche se non avevo finito il dottorato, parto un anno prima di finire, poi finisco il dottorato durante i weekend, un altro anno duro sicuramente, però rewarding, come direbbero gli americani. Già, risultato corrisponde premio, è un tema su cui torneremo tra pochissimo, però c'è anche un aspetto del quale scrivevi appunto alla nostra trasmissione, il fatto che tu comunque qualche curriculum in Italia hai provato a mandarlo. Quante risposte? Zero. Zero, e perché? Questo non lo so, non lo devi chiedere a me. Lo chiederemo tra poco al nostro ospite. Di certo stupisce un po' che una persona con il tuo background internazionale in Italia non ottiene quantomeno neppure una risposta. All'estero questo avviene? Quando cercavo per il dottorato avevo mandato curriculum sia in Italia che all'estero. Le ditte all'estero mi hanno sempre comunque tutte chiamato, ho avuto diversi colloqui telefonici e via dicendo. In Italia non ho mai ricevuto risposta. Da Chicago poi ti trasferisci nell'Idaho, dove ti trovi attualmente. Come avviene questo passaggio? Anche lì mandi un curriculum, e di cosa ti occupi attualmente? Anche perché tu a 36 anni, ricordiamolo, sei a capo di un gruppo di ricerca. Nell'ambiente sai che c'è la posizione a disposizione, quindi ti fai avanti. Networking è importante dovunque. La differenza tra il networking che vedo in Italia e il networking che vedo in America, il networking in America è più se vali, la persona ti porta dentro perché lo aiuterai a portare avanti il suo progetto. È un concetto molto diverso. Ti sei spiegato benissimo la differenza tra la raccomandazione all'italiana e la raccomandazione all'anglosassone, di cui abbiamo spesso parlato anche in trasmissione. E ora cosa fai? Ho un gruppo di ricerca, ci occupiamo di fare un po' supporto della simulazione della ricerca di nuovi metodi per i reattori nucleari della prossima generazione. In quello che c'è scritto e anche un po' in quello che hai detto poco fa c'è un concetto fondamentale attorno al quale ho voluto costruire anche un po' questa puntata, il concetto degli stimoli. Cioè tu c'è scritto: negli Stati Uniti mi forniscono gli stimoli a migliorarmi e a dare il massimo, perché comunque so che di fronte a un sforzo, a un risultato corrisponde un premio, non solo economico, a volte anche morale. In Italia io non ho stimoli, io mi appiattisco. Insomma, questo era un po' il sunto di quello che hai detto, spiegacelo perché. In America azione corrisponde reazione, nel senso performi, porti i contratti pubblichi, e vai avanti, ti danno progetti, ti danno soldi e ti danno anche promozioni e soldi a livello personale, quindi c'è una carriera. Ho 36 anni, per la mia età sono molto giovane per il posto dove sono in questo momento, quindi anche se l'ambiente della ricerca è lento comunque dovunque, in America è molto più veloce che in Europa sicuramente. Tu scrivi: in Italia sembra valere la regola del più studi meno vali. Questo sinceramente è incredibile, spiegaci perché. Vorrei chiederlo a qualcun altro. La mia impressione è che le industrie non si fidano della selezione delle università italiane, quindi prima lasci l'università, prima vai sotto di loro, prima loro ti possono misurare. In America è diverso, voglio dire, esci dall'MIT e l'industria sa che sei uscito dall'MIT, quindi combatte per averti. C'è un rapporto di fiducia reciproco fra l'università e l'industria che in Italia non esiste. In Italia se rimani negli studi è più perché ti rifugi. Christian, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? Innanzitutto, per esempio, una cosa che adorerei sono le borse di studio. Penso che in America ci sono tantissime borse di studio per gli studenti, sarebbe giusto che ce ne fossero di più in Italia, e sarebbe giusto che ci fosse più informazione su dove andare a studiare, per quale motivo e cosa aspettarsi dopo il lavoro. Ricerca in Italia non se ne fa tanto. Mi chiedo perché, forse perché l'industria italiana non riesce a trarre vantaggio dalla ricerca che si fa in Italia. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Christian Rabiti, 36enne ingegnere nucleare, attualmente team leader all'Idaho National Laboratory nel nord-ovest degli Stati Uniti. L'INL si pone tra gli obiettivi quello di appoggiare le missioni del Dipartimento Federale dell'Energia nell'ambito della ricerca nucleare ed energetica, ma anche nei settori della scienza e della difesa. Christian è responsabile di un team, a questa posizione è giunto dopo una laurea a Bologna in ingegneria nucleare, un master di specializzazione a Parigi e un dottorato a Stoccarda. Poi il salto negli Stati Uniti, prima a Chicago, poi appunto nell'Idaho. E ci raggiunge in linea l'ingegner Aldo Pizzuto, responsabile del programma italiano sulla fusione e direttore dell'unità fusione dell'ENEA, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile. Ingegner Pizzuto, secondo lei c'è un problema di espatrio anche nel settore dell'ingegneria nucleare dei nostri giovani talenti e dei nostri giovani professionisti? Soprattutto in questo campo, dove l'Italia, dopo essere partita in maniera molto promettente negli anni 60 nell'utilizzo dell'energia nucleare per usi civili ovviamente, ha poi via via perso quella posizione di prestigio che si era conquistata in parecchi anni di dura attività e fatta con entusiasmo. Quindi certamente dopo l'incidente di Chernobyl, che ha segnato la chiusura del nucleare in Italia, questo ha avuto una ripercussione molto pesante su quelle che potevano essere poi le opportunità in questo campo, e purtroppo abbiamo distrutto un patrimonio che speriamo si possa ricostruire con questo tentativo di ripartire. Questo è proprio un tema importante, cioè il tema, in un'ottica ovviamente di ritorno dell'Italia al nucleare, così come è stato annunciato anche recentemente al governo, di quelle prospettive si potrebbero aprire ai nostri giovani ingegneri nucleari. Certamente, è chiaro che ci vuole un certo sforzo, perché le cose che diceva Christian prima purtroppo si riscontrano ancora tuttora, e la sensazione che i giovani hanno nelle università di far tanta fatica e non capire alla fine che sbocchia, che interessa, cioè questa autoreferenzialità del sistema universitario oggi dovrebbe avere invece uno sbocco più concreto nel rapporto con l'industria, col sistema produttivo, ma anche con i grandi progetti. Se non si lanciano i grandi progetti che anticipano, oggi noi ripartiamo con il nucleare tecnicamente consolidato, che è la generazione 3, però in prospettiva, perché bisogna ricostruire tutto il contesto, è chiaro che bisogna partire anche in parallelo con grandi progetti che possano ricostruire tutto il tessuto nazionale. Quindi bisogna lavorare tutti, ciascuno per la prima parte, enti di ricerca, università, industria, su obiettivi che possano effettivamente far ripartire il sistema come era partito molto bene negli anni 60. Ecco, restando anche un po' sul focus di questa trasmissione, proprio le prospettive dei giovani professionisti, soprattutto di quelli che hanno un background internazionale. Io le faccio anche una piccola provocazione. Ho letto su internet che la Cina sta sviluppando molto il nucleare e sta cercando migliaia di ingegneri nucleari. Non c'è il rischio che, se non cambiamo un po' questa mentalità per cui chi ha un background internazionale, come nel caso di Christian, e manda dei curriculum vitae e non ottiene neanche una risposta, se non riusciamo forse a cambiare un po' questa mentalità di non selezionare, non valorizzare il talento, la Cina alla fine ci porterà via comunque i migliori? È un rischio vero, come altrettanto rischioso il fatto di non mantenere e di non ripartire con attività che possono veramente riformare i giovani, perché il caso di Christian è un'eccezione piacevole. Mi dispiace che la sua vicissitudine l'ha portato negli Stati Uniti, ci sarebbe bisogno di tante persone come lui in Italia, però sempre meno, diciamo, ragazzi pur brillanti hanno la motivazione e sono attratti da questi campi, e sono quei campi su cui dobbiamo puntare. L'Italia è un paese che, proprio per fronteggiare la Cina, non può che puntare sull'innovazione e sulla qualità. Se questo lo si fa attivando la formazione, ma dando anche degli obiettivi precisi, cioè è chiaro che il ragazzo che si affaccia al mondo della formazione deve poter vedere un percorso che gli dà delle opportunità. Ovviamente non gli può garantire nulla, ma gli deve dare delle opportunità. E soprattutto il fatto che diceva sempre Christian che sembrava che di quello che faceva lui a un certo mondo non interessava nulla, questo va cambiato. Parole importanti, ingegnere, dette da una persona, su questo appunto vorrei anche introdurre un cenno biografico, che conosce bene il valore dell'innovazione, conosce bene il valore dello scambio internazionale, perché l'ha inserito anche all'interno di progetti di rilievo europeo come ITER e come FASTA. Christian, c'è una domanda che vorresti porre all'ingegnere Pizzuto? Riesce l'Italia a essere competitiva sul mercato internazionale, non solo a portare indietro gli italiani, ma anche, perché no, a reclutare i cinesi? Io spererei proprio di sì, se si riuscirà a rendere operativo il piano sul nucleare. Questo chiaramente richiede uno sforzo di paese, perché ripeto, non è solo una questione tecnica. Quindi se il paese riuscirà ad acquisire la consapevolezza che deve guardare avanti e impegnarsi su campi in cui l'innovazione e la qualità dei prodotti contano, e allora io sarei ottimista. Grazie all'ingegnere Aldo Pizzuto dell'Enea. Domanda di rito e finale, conclusiva, per Christian Rabiti: quale consiglio daresti a un tuo giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, anche a un espatrio? Capire quanto si vale sul mercato, dove sei ricercato. Questo è il punto di partenza, perché diversamente non sai veramente dove andare e cosa aspettarti. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi concludiamo la nostra marcia di avvicinamento all'iniziativa Lo Sbarco, che parte venerdì prossimo da Barcellona e vedrà la partecipazione di centinaia di espatriati. Andrea Delotto, uno degli organizzatori. Lo Sbarco nasce ormai quasi un anno fa con un'idea di organizzare un'iniziativa che partisse da dove viviamo, dai tanti italiani che vivono a Barcellona, che soffrono a vedere la situazione dell'Italia, del proprio paese, della propria terra, vedono un declino generale, soprattutto dal punto di vista culturale e sociale, e assistervi e basta provoca gran dolore e sofferenza e senso di impotenza. Quindi il provare a fare un gesto, un'iniziativa che fosse carica di simbologia, che ricordasse il nostro mare, il Mediterraneo, le navi degli italiani che partivano tanti anni fa, e quindi fare un'iniziativa che partisse da qui con un grande contenitore quale quello di una nave, che abbiamo chiamato poi Nave dei Diritti, e che raccogliesse e sta raccogliendo adesioni dei tanti italiani che vivono fuori d'Europa, che sono usciti anche recentemente e che vogliono comunque manifestare e dare appoggio a tutti coloro che noi sappiamo stanno resistendo in Italia di fronte invece a questo sfacelo a cui noi assistiamo, e per dare supporto e sostegno a loro che altrimenti sono sicuramente sottovalutati dai mass media. La nave salperà venerdì prossimo da Barcellona in direzione Genova, vi saliranno centinaia di espatriati e si ricongiungeranno poi a Genova con gli italiani che parteciperanno alle manifestazioni il giorno successivo e il giorno successivo ancora, giusto? Sì, arriveranno da Bruxelles, da Parigi, da Madrid, qui a Barcellona, partiremo il venerdì sera, arriveremo, saranno 18 ore di navigazione, quindi già sulla nave avverranno molte cose, la stiamo caricando di iniziative, alla sera ci sarà questa festa a Genova di accoglienza del grosso movimento che è nato a Genova per accoglierci, ma lì confluiranno realtà di Milano, di Torino, di Roma, di Napoli, di Firenze, che si stanno organizzando per raggiungere Genova. Ci sarà una grandissima festa quella sera e una notte che passeremo tutti a Genova, e quindi una giornata intera sui temi dei diritti in 5 piazze nella città di Genova. Giovani Talenti, questa trasmissione si occupa molto di giovani professionisti che espatriano. È ovviamente un po' una curiosità, se vuoi mia, ma capire anche qual è la componente anche di giovani che sono espatriati recentemente dall'Italia e che partecipa allo Sbarco. Qui a Barcellona è sicuramente presente, è nata un po' come gruppo di famiglie, quindi di una generazione fra i 30 e i 45 anni circa. In realtà si stanno aggiungendo molti giovani, molti che arrivano fuori dall'Italia con progetti Erasmus e che poi vi si fermano, e soprattutto per esempio una comunità giovanissima, la più giovane di tutte, quella di Bruxelles, che ha aderito con grande entusiasmo, si sta mobilitando alla grande, tutte persone in genere che hanno alti titoli di studio, spesso a volte anche per uscire dal paese si riducono a fare lavori semplici, ma che recuperano velocemente il proprio titolo di studio e il proprio valore più facilmente all'estero che non quanto avrebbero potuto fare in Italia. Nave dei diritti, possiamo aggiungere un diritto, e così entriamo nel tema della nostra trasmissione, ai giovani di talento che meritano di potersi affermare anche in Italia, di non dover andare per forza all'estero? Valorizzare i propri talenti, le proprie capacità, risorse, questo ci sembra una cosa molto nobile anche, nel senso che comunque pensiamo sia risorse, energie che sono della comunità, della nostra terra, e quindi che debbano andare via è sicuramente una perdita. Non lo pensiamo in termini di arricchimento personale, ma proprio invece di sviluppo di una civiltà, di una cultura collettiva nella quale noi crediamo. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.losbarco.org. E prima di chiudere questa puntata di Giovani Talenti, apriamo lo spazio Intern Active, una rubrica di confronto online per dare voce a chi di voi è espatriato oppure intende intervenire nelle discussioni che lanceremo settimanalmente. Grande successo per la discussione lanciata nelle ultime 2 settimane. Il mondo del lavoro italiano è, secondo voi, pronto e reattivo nell'accogliere giovani dal background formativo e lavorativo internazionale? Queste le vostre risposte. Luigi non è sicuramente pronto, né una riprova il fatto che le conoscenze extra di chi possiede il dottorato di ricerca sono considerate quasi sempre inutili dalle aziende italiane. Vi sono lodevoli eccezioni, ma è chiara la percezione che conti di più l'intraprendenza e la scaltrezza che non la preparazione. In sostanza, un paese di venditori più che di inventori. Giovanni, la realtà italiana è fatta nella maggior parte dei casi di aziende e persone che non hanno voglia di cambiare. Mi sono trovato continuamente nelle condizioni di essere visto come un alieno o come il saccente di turno, semplicemente perché i tuoi colleghi pigri e piegati al sistema non vogliono crescere. Tutto ciò diventa frustrante. Sento parlare ovunque di competitività, innovazione, crescita, ma questi slogan sono delle grandi falsità. Il mondo del lavoro italiano non vuole accogliere giovani fuori dagli schemi. Così Giovanni. Alessandro, vorrei riportare l'esperienza lavorativa di un mio amico, un anestesista che durante il periodo di studio ha viaggiato in Inghilterra e in Francia, dove ha potuto apprendere nuove tecniche e metodologie. Terminato il periodo di studio praticantato, ha scelto di tornare per motivi personali, ma a quale prezzo? Il primario dell'istituto ospedaliero per cui lavora non ha motivato il mio amico, gli ha tolto ogni speranza di crescita, dicendogli: siamo in Italia, scordati tutti i sistemi avanzati e le nuove tecnologie che hai visto all'estero. Rossella, la classe dirigente italiana è ancora quella con la mentalità vecchia di una volta, gente che magari all'estero l'esperienza non l'ha mai fatta o solo brevemente, in modo da poter solo assaporare le differenze ma non viverle in profondità. Forse c'è invidia del giovane con esperienze internazionali, ma soprattutto c'è la paura di essere superati da uno di 20 anni più giovane con conoscenze più estese. Questa settimana vi lanciamo una nuova provocazione. Secondo Union Camere, l'85% delle offerte di lavoro in Italia è nascosto, non pubblicizzato, cioè con trasparenza. È un sistema che taglia fuori, secondo voi, i giovani di talento e dall'apertura internazionale, ma senza le conoscenze e gli agganci giusti? All'estero è così, oppure soprattutto nei paesi di cultura nordica e anglosassone c'è molta più trasparenza? E come possiamo raggiungere i loro livelli di selezione dei talenti? Per dire la vostra potete scrivere a giovanitalenti@radio24.it oppure ci potete cercare su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Esiste anche un gruppo sul portale professionale LinkedIn chiamato La Fuga dei Talenti, dove rilanciamo settimanalmente la discussione, e potete anche interagire sul blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto i vostri contributi online e a giovanitalenti@radio24.it e vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 15, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.